B. Ascolta e controlla. 1. Eravamo arrivati solo da pochi minuti quando è cominciato a piovere a dirotto. 2. Quando Elena era all'estero, telefonava a sua sorella ogni sera alle 9. 3. Vorrei sentire un sorso di questo vino prima di comprarne una bottiglia. 4. Ieri sera Fabrizio era libero e allora ha risposto alle email che aveva ricevuto dai suoi zii che vivono in Brasile. 5. Appena siamo entrati in cucina, abbiamo sentito un profumo di pollo arrosto con patate. 6. Gli studenti hanno tradotto in italiano un brano di letteratura per bambini. 7. Ragazzi, per cortesia, potete venire nel mio ufficio appena avrete finito di studiare? 8. Sa a che ora parte l'autobus per il centro? Non lo so, però può chiedere all'autista, che in questo momento è al bar. 9. Chiara conosce bene i vicini di casa, ma ha deciso di non andare in montagna con loro. 10. Sono andata dal medico in ambulatorio perché avevo un forte mal di stomaco.